Dialog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Finalmente si è estinto il crudele aprile e siamo entrati dentro maggio, che maggio è un mese che senz'altro ci incita all'ottimismo. Maggio, finalmente siamo nella primavera, maggio è spuntato il sole, e maggio si avvia verso giugno che c'ha la falce in pugno, comincia l'estate e tutti pensiamo alle vacanze. Perché ho cominciato con questa baggianata? Perché adesso vi raffredderò ogni vostro entusiasmo. Sono giorni che si sta dolorosamente enumerando sui giornali dei casi tristissimi di persone che si tolgono la vita. Dietro questo accanimento nel raccontare episodi così laceranti, così tristi, probabilmente si nasconde anche un problema oggettivo, un problema che tutti sentiamo, un senso di disperazione, di disillusione, di impossibilità di farcela altrimenti. Devo dire con onestà che gli antichi e forse superati manuali di giornalismo dicevano che non occorreva, era meglio, preferibile non fare mai grandi enfasi rispetto alle notizie date sui suicidi. Perché? Perché esiste una sorta di effetto di imitazione. Più se ne parla, più le persone si trovano in una zona liminare di disperazione, disponibili a fare questa sorta di gesto che dovrebbe lasciare una traccia di se stessi dopo la nostra morte. Il suicida pensa sempre che la sua morte è uno spettacolo edificante per gli altri, lascerà una traccia, significherà qualcosa. Beh, più se ne parla, più si aiutano le persone che già hanno questo proposito, sono già in questa area grigia di decisione di abbandonare la vita, a compiere questo gesto. Quindi questa mattina farò una trasmissione di segno totalmente contrario. Voglio sdrammatizzare la morte, voglio irridere il senso di lasciare una traccia attraverso una morte gloriosa. La morte non è mai gloriosa, non esiste una forma gloriosa di morire, perché ci dispiace sempre, perché la vita comunque è sempre meglio della morte, perché la morte però è ineluttabile. Con la morte bisogna fare i conti, bisogna pensarci che esiste, bisogna pensarci che il nostro cammino esistenziale, per quanto divertente, per quanto pieno di soddisfazione, per quanto denso di angustie, comunque un giorno finirà. Cosa accadrà dopo? Ci siamo posti questo problema in una precedente puntata. In questo momento non mi interessa il dopo. Il dopo può essere una fantastica vita eterna o può essere una tranquilla e apatica nullità eterna. Non è questo il punto, ma il punto è oggi raccontare come noi vorremmo, se potessimo, scegliere la nostra morte. Immaginiamo che sia una gran festa, immaginiamo che sia un momento che dovrebbe lasciare una traccia negli altri, immaginiamo questo momento fatidico per noi assolutamente irriproducibile e del quale nessuno ci può portare un'esperienza diretta, potessimo noi organizzarlo come se fosse una regia. E se fossimo registi della nostra fine, come vorremmo la nostra fine? Mi rendo conto che l'argomento è totalmente antitetico al clima generale di mestizia che si respira, mi rendo conto l'argomento è totalmente antitetico alla fantastica esplosione della primavera di questa mattina, proprio per questo voglio parlarne. 800 24 00 24, se voi poteste scegliere, tanto morire bisogna, come vorreste morire? Ho 55 anni, la volete capire? E la vita è una sola, lo capite sì o no? E non ritorna un'altra volta. Per un mese ho vissuto come bei tempi quando i conti macetti andavano fuori con risotto a fraschini, lo chauffeur, il maggiordomo. E un orso bruno. E un orso bruno al guinzaglio, sì. Io in 5 anni mi sono fatto fuori tutto il patrimonio mio e quello di mia moglie Alice. Eh sì, calcolato al giorno d'oggi, sono 5 o 6 miliardi. E me ne vanto. E senza contare che adesso è arrivato quel ragno che mi ha fatto ringiovanire di 20 anni. Il conte macetti per l'ultima volta vi saluta e se ne va. Aspettami, darling. Gaetano, il mio Ferrari. Non vi preoccupate, ragazzi. Fra 3 giorni mi ammazzo. Vi butto dalla terrazza. Addio. 800 24 00 24. Abbiamo iniziato con un racconto ormai entrato nell'epica condivisa che attraverso il cinema segna delle pietre miliari. Il conte Mascetti lungamente allucina questa sua fantastica fine che gli ricorda la dignità dei suoi avi. Giuseppe Sansonna, ciao. Buongiorno, buongiorno. Dopo mi dici anche te come vuoi schiattare. Sì, poi adesso lo elaborerò durante la trasmissione. Io non lo posso dire alla radio, purtroppo, anche per la presenza di mia moglie. Forse al di là neanche del io, forse neanche io. Vabbè, comunque andiamo. Lasciare obscena la cosa, comunque. Invece qui nessuno meglio di Tognazzi può incarnare lo spreco battagliano dell'aristocratico che ha perduto tutte le sue prerogative di ricchezza e quindi è costretto a una vita misera rispetto ai suoi standard, si concede l'ultimo periodo di vita, prova a concederselo con questo spreco, con questo hotel di Montecatini a 8 stelle, con questa donna meravigliosa con cui vive gli ultimi momenti, e affidandosi poi al denaro che prenderà dall'usuraio Stop. Però gli amici cercano di salvarlo, insomma, da questo suo gesto estremo. Insomma, questa è un po' la radice profonda di Amici miei, perché c'è sempre questo aleggiare della morte dietro lo scherzo, dietro la burla portata all'estremo, ma molto malinconica nel fondo. Poi correggimi se ho ricordi fumosi, il conte Mascetti può fare una fine abbastanza miserrima, nelle ultime serie sulla sedia a rotelle, che totalmente privo anche della capacità di esprimersi. Sì, gli viene un ictus, però quindi rimarrà sulla sedia a rotelle, poi nell'epilogo degli Amici miei atto terzo rimarrà sempre continua ad essere beffardo, sostituirà gli schiaffi alla peretta del cristiere per schizzare inchiostro agli avventori del treno che passano davanti. Gli schiaffi della gioventù vengono sostituiti da questo nuovo dileggio. Questo per far capire che anche le nostre regie più fantastiche ed esasperate di eroismo del trapasso, in realtà poi il destino, che è sempre beffardo, ride sempre su di noi, le contraddice. Quindi per quanto ci si possa sforzare a immaginare la morte che arriva poi non è mai molto bella. Walter, buongiorno. Buongiorno. Oh, ecco il primo. Trasmissione. Le io piace, sono... vero? Aprono il cuore. Sì, perché comunque ogni tanto si parla della morte, no? Sì, ma beh, io vorrei subito dire una cosa, io vorrei morire da solo, in pace, senza nessuno che pianga la mia morte. Perché? Perché io sono un praticante buddista, faccio meditazione astrale. E beh, lei ha già risolto tutti i problemi, beato lei, e noi ancora sì, siamo qui. È vero, io ho risolto tutti i miei problemi, vorrei che molti come me risolvessero anche i suoi, perché la morte non è brutta. E la sofferenza. Ma lei che ne sa? Cioè, bisognerebbe morire per poterlo raccontare. Ma io sono morto e ritornato. Ah, beh, sì, adesso vedremo. Più di una volta, forse voi non ci credete. Anche io mi capita quando la bottiglia del tequila è vuota la mattina, ho passato questa esperienza. Però, guardi. No, gli dico una cosa. Ci sono delle meditazioni dove si ferma il cuore e il respiro, e dove si va da un'altra parte, da un'altra porta, e si ritorna. Ma lei sta parlando con me adesso, quindi non è morto. Ma lei ha fermato il uno cuore? Crede che dopo, uno crede una cosa, quando uno muore non torna più. E questo è un grande errore. Ma guardi, io le invidio una grande cosa. Vedi, sì. Gli atti di fede sono fantastici. Chi riesce ad appoggiare la propria serenità a un atto di fede è invidiabile. Sì. Lei in questo momento, poi non è fede, lei essendo buddista, la fede appartiene ad altri cicli. Non è una filosofia. Sì, infatti, esattamente. La sua è un'esperienza. Il buddismo è fatto solo di fede. Allora, visto che lei entra e esce dalla vita alla morte come vuole, quando deciderà di morire, che fa? Smette di respirare? Beh, se verrò colpito da un fulmine, non è una scelta. No, allora, mi descriva, visto che lei ha avuto questa fortuna, il giorno in cui deciderà di morire, cosa farà? Si alza la mattina e dice: oggi è venuta l'ora, che fa? Così almeno. Il suicidio non è. No, non è un suicidio. Lei è buddista. Un giorno deciderà che deve morire, e se no, mica. Sì, certo. E allora come fa? Come si fa? Io vorrei morire in questo modo. Ma si apparecchia, no? Diciamo, un luogo particolare? Lo dica nei particolari. Sì, si accende l'incenso, non lo so. Mi piacerebbe morire in un giorno in cui vale la pena morire. Ad esempio? In un giorno di luce, specialmente. In un giorno dove. E qual è l'ora migliore? È il tramonto, credo che sia il tramonto. Quando cala il sole. Allora si mette di fronte al sole calante. In un giorno, facciamo il giorno di massimo sole, cos'è, il 21 giugno? Il solstizio, possiamo fare anche il solstizio di giugno, sì. Giugno, va bene. Non c'è un giorno particolare per decidere di morire, te lo devi sentire dentro. Ah, sì, quando gli viene sta voglia. E all'aperto o al chiuso? Io sceglierei di farlo sotto una pianta all'aperto. Sotto che tipo di albero? Una bella pianta che mi faccia ombra nell'ultimo giorno di sole. A me piacerebbe una pianta d'agrumi quando fiorisce la zagra. Quindi no, questo mi piacerebbe periodo. Un salice piangente, qualcosa che mentre guardi la luce. Foscoliana, questa cosa. La morte comunque non porta alla luce. Ha sotto un salice piangente, un giorno di sole, al tramonto. Lei si mette in che posizione si mette per morire? Ti devi mettere disteso con le mani sul petto. Ah, giù proprio già pronto per la bara. Io non voglio essere assolutamente, vorrei morire e essere mangiato dagli insetti, così. Lei mette su un formicaio, su dove si mette? Su un formicaio no, perché non potrei entrare in concentrazione. Che insetti vuole? Che tipo di insetto vuole? Mi piacerebbe essere mangiato da tutti i tipi di insetti che anche dagli uccelli. E allora lei cosa fa? Prima cattura un po' di uccelli, un po' di insetti e li mette intorno al suo quasi cadavere. No, se io vado a mezzo bosco, gli insetti quando poi sono morti ci pesteranno da solo, capire. Ah, beh, quindi si mette, diciamo, in un posto già sotto, diciamo, dove esiste un po' di foglie marcite, muschio. Mezzo la natura. Che arrivano i lombrichi e fanno subito. E poi cosa fa a sto punto? Quando ha apparecchiato tutto, per morire come fa? Beh, ci sono delle tecniche che gliele spiego velocemente. Con la meditazione astrale, che hanno fatto molti come me, devi comprimere con la respirazione il cuore. Comprimere e abbassare il livello di respirazione. Con questa tecnica il respiro si ferma. È tranquillo, è buono. No, tu senti proprio che stai morendo. Se lo senti. Ma non è meglio non sentire niente? Cioè, ubriacarsi, mettersi lì e poi... No, ubriacarsi bisogna avere coscienza della morte. Io sono ancora legato a dei limiti da uomo occidentale. Vabbè, Walter... Guardi, perché lei un giorno... Guardi, lei è una persona simpatica. Perché lei un giorno... Non prova a morire. Qualche praticante buddista, no, io, perché non ci tengo. Qualcuno che faccia la meditazione. Che mi spiega come si muore. Guardi, ecco, purtroppo penso di saperlo fare già da solo. Cioè, succederà, quindi... Vabbè, comunque, prendo atto del suo insegnamento. Grazie, Walter. Andiamo avanti. Ma batti scherzi, anche tu. Tu lo sai, io sono una persona istruita. Te vuoi fidare? Lasciami l'ultima volontà. Come vuoi il trasporto funebre? Con tutti gli amici dietro che ridono. È il primo che piange e paga la beva a tutti. E che te ce devo scrivere su Adum? Provare per credere. Oh, ma che te putti con tutto l'addosso? Dai la catena che i bracciali! Non è! Voglio morire con tutto l'oro addosso, come i faraoni! Ma traccia a noi! Se volete l'oro, può venire a pesca! Mi è venuto il torcicollo, devo buttare! Dai, va, diamo soddisfazione al popolo. Ecco, l'esatta antitesi del sogno di morte buddista del nostro ascoltatore è la morte allucinata da accattone. Come sogna Muriel Accattone, sogna con lo schiaffo alla miseria di fronte a tutti. Giuseppe. Questo è appunto il 7 e il bagno del Ciriola sul Tevere, Ponte Sant'Angelo, davanti a Castel Sant'Angelo, la faccia da indio di Borgata, di Franco Citti, che si butta coperto d'oro, perché sa che è una sorta di Ordalia Longobarda, c'è qualcosa di profondamente pagano in questo spreco non prospettico della vita, questa negazione della storia. Lui fa questa scommessa con gli amici, divora come un alluvionato, dice Pasolini, divora il cibo con gli amici e poi si butta dopo mangiato per scommettere dei soldi con gli amici, quindi non ha una visione, potrebbe morire come potrebbe non morire, si mette loro addosso perché non vuole lasciarlo agli amici, non vuole che possa poter essere depredato, venite però a pescare sul fondo del fiume, c'è questa sorta di sacralità del proprio, del non volere, di non programmare da piccolo borghese l'esistenza. Sì, però vedi, è esattamente inserita nella tradizione culturale, storica, sociale di Accattone. Il sogno dell'Accattone è morire coperto d'oro come un faraone. Il salto del nostro ascoltatore è un salto di 360 gradi. Leggo qualche sms perché le persone stanno rispondendo, chiamate 800240024 e descrivete la maniera migliore secondo voi per morire. Di professione compost, bella aspirazione. Ecco, questo riferendosi al signore vuole essere mangiato dagli insetti. Un altro dice: ovviamente in battaglia, l'assalto di una postazione sotto il fuoco nemico con tanti inni trascinanti o salvando una dolce fanciulla dai cattivi. Beh, bello, questo dà soddisfazione. Vorrei una volta la Blade Runner, ora è tempo di morire, con la stessa atmosfera cyberpunk, come il mutante cyborg di Blade Runner che muore, voi umani, con la pioggia e poi muore, chiude gli occhi. Infarto secco. Gianluca, vuoi fare una partita a scacchi? Non interrompere fessamente chi parla. Questo scrive sempre questa frase tutte le volte. Non interrompere fessamente chi parla. Bella anche, diciamo. Allora, Luca, buongiorno. Sono io? Sì, certo. Ah, allora, descriva con dovizia di particolari la sua probabile morte. Ah, io faccio il chirurgo e sono un cavaliere semiprofessionista di una specialità che voi a Radio 24 non avete mai nominato se non due volte a sproposito. Allora chiami la nomi adesso, sì, la nomeremo a proposito. Qual è? Dressage. No? Sì, dressage, va bene. Il mio sogno sarebbe che il giorno in cui mi dovesse toccare, no? Mi toccasse magari a fine di una gara per una caduta da cavallo o un infarto a cavallo, ma ho la pressione bassa, quindi... Quindi lei vorrebbe cadere da cavallo? Neanche. Come l'aria cadere o morire a cavallo, ecco. Molto semplice. Ma calpestato dal cavallo per essere sicuro una volta a terra o semplicemente... No, assolutamente. Colosso del collo spezzato. Non è estetico. Beh, cadere o a cavallo... infarto o magari se il collo spezzato anche può andare bene. Scusi, dottore, non è male. La caduta da cavallo rientra nelle iconografie della bella morte, sei trafitto da una lancia, dal fuoco nemico, da una sciabolata di un turcoman. Il problema non solo che io non faccio il guerriero e non sono nel Medioevo, a di oggi è un po' dura, quindi mi accontento nella mia specialità di una caduta a fine gara o magari di un infarto a fine gara. Però descriva la scena. Il cavallo finisce la gara, la disarciona, saluto, uno si toglie il cilindro perché si monta in cilindro, no, si rimette il, dopo aver salutato la giuria, si rimette il cilindro, prova, ha vinto, esce naturalmente dal campo a redini lunghe, a un certo punto si piega in avanti sulla sella perché gli è venuto un infarto meraviglioso, sì, e precipita dal cavallo in terra e il cavallo resta lì a aspettare come fanno i cavalli senza, si mette a brucare l'erba accanto al cavaliere disarciato. No, l'erba non c'è, quindi si limita a stare fermo e aspettare. E se il cavallo in quel momento viene preso da un suo bisogno intestinale e rovescia sul cavaliere disarcionato il frutto del suo intestino, non è bello, non però non è mica grave, eh? No, vabbè, comincia, è più che accettabile, molto difficile che succede, però sarebbe brutto, chi viene lì la vede con la bocca storta dell'infarto. Non è grave, va bene, comunque ha espresso perfettamente, grazie Luca. Antonio? Sì, pronto, buongiorno. Antonio, lei come vuole morire? Ma io nel modo più semplice, senza andare a cercare incidenti, faccio il camionista, quindi potrei restare secco anche qua, voglio dire. Beh, guardi, lo faccia in una strada deserta. Fare sesso, a una certa età quando fai sesso e crepi, che ce ne sono parecchi, che purtroppo tirano le cuoia in quel modo, hai capito? Ma io di così quello va in cerca. Lei vuole schiattare sul pezzo, come si suol dire. Che cavolo. No, che cavolo. Descriva come fa gli altri, come vorrei, in che occasione. Certo, nel letto con la moglie magari, se va ancora. Vabbè, che allegria, scusi, ma scusi, che allegria. No, ma no, ha una possibilità di inventarsi quello che vuole a letto con la moglie. Sua moglie non si congiungerà più con lei dopo che ha detto questa cosa. Temendo che quadrato. Un letto quadrato vuole. No. Voglio dire, spazio ce l'è nel letto, no? Se è grande, meglio ancora. Ah, quindi lei vuol morire con la moglie, facendo l'amore con sua moglie? È una cosa molto tenera, comunque. No, lei no, io sì. Pensi sua moglie che. Stando al tuo ragionamento, hai capito? Beh, certo, potrebbe giovare sua moglie del rigor mortis, forse questo, non lo so. Comunque. Magari piglia pure l'assicurazione, è mica male il discorso. Vabbè, guardi, stia attento perché se la sente, può essere che magari forse un buon aiuto glielo potrebbe anche dare. Grazie, Antonio. 5 secoli fa, a Otranto. Ti sarebbe piaciuto morire. Oggi vorresti vivere. È vero, questo tuo è un torneo truccato. Non contare mai più sui miei colori. Pensa piuttosto a pagarti il telefono. Questo lusso di sangue non ti si addice. E il male non sta qui, che tu, credendomi una puttana, abbia tentato di fare di me la tua ruffiana di fiducia. E questo m'auguravo per te quando ti vidi la prima volta dal mio altare. Stiamo salendo di livello, naturalmente, Giuseppe. Qua siamo in un altro ambito rispetto a Cattone. Però ci avviciniamo alla telefonata dell'ascoltatore, del cavaliere, perché qui il Nostro Signore dei Turchi, Carmelo Bene, immagina un film profondamente e poeticamente autobiografico, immagina di essere fantastica, di essere uno di quei martiri di Otranto che nel 1482 furono massacrati dall'invasione turca, da Ahmed Pascià. Però può solo fantasticare in un mondo che non è più barbaro, appunto la barbarie è una fortuna che non capita più, dice Santa Margherita Lidia Mancinelli, è un mondo esclusivamente stupido in cui ci si può solo tentare di autocrocifiggere, però il martirio è precluso come slancio poetico e quindi tutto diventa grottesco, tutto si rovescia in farsa, il lirismo cavalleresco diventa farsaccia. È bello perché vedo che bene o male nel loro piccolo, la loro esperienza individuale e personale, gli ascoltatori hanno sempre dei riferimenti epici. Il cavaliere che pratica il dressage vorrebbe morire col cilindro vestito appena esce dal campo che ha vinto. Il camionista nella sua massima apoteosi del sogno che tutti gli uomini dicono, vorrei morire tra le cosce, in realtà poverino vuole morire nel suo talamo coniugale abbracciato alla moglie, che è una cosa tenerissima. Penso che le nostre ascoltatrici non potranno che invidiare quella donna. 800 24 00 24, ho molta curiosità di sentire una signora che mi racconta come vorrebbe morire, perché di morte con le donne non si parla mai. Perché? Perché la morte le donne te le danno con il sorriso. Melog. La realtà condivisa. C'è donna Flora. Perché ci stanno pure i fantasmi femmine? Che femmina? Dice che era bionda, bellissima. Si parla di me? Pare che fosse un po' cretina. Sì, sì, si parla proprio di te. Si suicidò per amore. Si innamorò di un garzone, ma il padre non lo voleva sentire nemmeno nominare. Rutilio si chiamava. Aveva ragione suo padre, uno che si chiama Rutilio. Un bel giorno il conte padre andò dal garzone, gli dette una somma e lo fece partire per l'estero. La poveretta si gettò a fiume, e non nel mese di agosto, nel mese di febbraio. E da allora pare che tutte le sere alle 8, donna Flora da Ponte Cestio, e si butta di sotto. Quando si dice l'intelligenza, eh? Stasera andavamo a Ponte Cestio, se buttiamo e salvavamo la giornata dietro all'Ibale, eh? Voi due credete di prendermi per il fondo dei pantaloni, ma i fessi siete voi che non credete che i fantasmi esistono. Certi giorni non ci credo. 800 24 00 24. Oggi stiamo allucinando l'istante fatale della nostra morte. Sì, vogliamo sdrammatizzare questa idea del morire, visto che ci tocca a tutti. Immaginiamo come vorremmo che accadesse. Abbiamo già avuto fantastiche testimonianze, il buddista vorrebbe lentamente autosopprimersi al tramonto sotto un albero con pronti tutti gli insetti per mangiarlo, il cavaliere che vorrebbe alla fine di un torneo in cui esce vincitore saluta col cilindro e cade per un infarto e il cavallo accanto a lui lo veglia, il camionista che vorrebbe morire facendo l'amore nel talamo coniugale con la propria moglie. Mi domandavo quale potessero essere i pensieri delle donne. Le donne, ci sono molte trasmissioni in cui sottraggono, fingono che non ci sono, stanno a guardarci come da uno spioncino nei nostri deliri maschili. Una donna parla di morte semplicemente quando vuole porti il ricatto di un amore contrastato, di un amore non corrisposto, o vuole ricattarti, morirò, mi farai morire, e mi stai distruggendo la vita, a te che ho dato gli anni migliori della vita, un giorno morirò e ti pentirai. In realtà le donne sono le nostre fantastiche immaginarie psicopompe, coloro che ci porteranno per mano verso l'atto estremo. Non ridere, Sansonna, è un termine aulico, è quell'entità, quella deità che ti prende per mano e porta l'anima verso l'aldilà. Posso mai ridere in un momento come questo? No, no? È una burinata, ridere psicopompa, no, non c'è nulla a che fare con quella cosa lì. Un ghigno isterico. Comunque questo che abbiamo ascoltato era Fantasmi a Roma di Pietrangeli, l'acutezza sensibile del grande regista che ci mostra questa Sandra Milo nei panni di una sorta di Ofelia che appunto davanti all'impossibilità di un amore suicida per amore. E questo è il vero ricatto della donna, mi ucciderò per te, capito? Questo è un film delicatissimo e molto, molto intelligente, che in forma un po' fiabesca presenta anche varie morti. C'è anche Mastroianni che invece muore per la sua smania di conquistare donne, una sorta di Casanova, che è uno dei vari fantasmi che popolano questa casa abitata dal principe, che è Edoardo De Filippo, che li conosce questi fantasmi. Il fantasma in sé già è un atto di estremo rimpianto e rimasticamento perché il fantasma si gira, perché è inquieto, perché la morte per lui è stato qualcosa che non l'ha soddisfatto, qualcosa non ha funzionato, deve tornare verso la pace, verso la luce, quindi non fa altro che ripetere, rimmaginare il momento della sua morte, perché non è stato come lui volesse, come lui voleva. Certo, però qui hanno anche la funzione di rappresentare la memoria, finché vivi nella memoria appunto foscolianamente rimani vivo, rimani appunto legato alla sensibilità di chi rimane. Ecco Francesca, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, finalmente oggi ci svelerà il mistero di come immaginano di morire le donne. Ma a me piacerebbe molto morire durante un viaggio, adoro viaggiare, mi piace andare in giro per il mondo e trovo che sia una cosa bella. Morire su una scrivania penso che sia una cosa di una tristezza infinita. Mamma mentre si lavora. Quindi, morire in terra straniera, già per cominciare, morire in terra straniera. Sì. Potendo scegliere... Per chi si occupa... Potendo scegliere l'altitudine, un paese esotico, nell'estremo oriente, mi dica un posto dove vorrebbe morire. Il deserto, direi. Morire nel deserto. Ma in realtà, velocemente, per carità, non voglio ricordare. Ma adagiata su una duna, all'ombra di un palmeto, sull'antico minareto, dove vorrebbe morire? Descriva meglio. Ma sì, magari in un'oasi. Un'oasi. Magari in un'oasi con delle palme, dei datteri intorno, oppure schiantandomi con un bel aereo, un aerino di quelli che sorvolano come il volo della Fenice, finire con un aereo in mezzo più o meno. Ma perché no? Cosa ripeto rapida, Torniamo al gazebo, con l'oasi. Lei è nell'oasi sotto un gazebo con i datteri, con le palme, con l'acqua. Chi dovrebbe essere accanto a lei nel momento estremo? Un beduino? Ah, beh, chiaro, l'amore della vita mia. E costringe anche lui a venire in mezzo al deserto, magari non gli va. No, no, gli è piaciuto molto, quando ci siamo andati gli è piaciuto assai. Qui si porta dietro l'amore della vita sua nel deserto. Certo, che magari muore anche lui così non piange. Beh, ma magari non è che proprio compagna. Non è proprio nei suoi... c'ha voglia. No, no, beh, sì, chiaro. Quindi prima domanda l'amore della vita sua, senti, te va di schiattare con me in mezzo all'oasi sotto il gazebo con il dattero? La panna? Glielo chiedo, perché secondo me non mi sta sentendo, però stasera glielo domando. Beh, se lui va, metta caso, andateli, cosa fai? Mettete mano nella mano verso il sole che tramonta, anche voi? Bello, o l'alba, forse è più bella l'alba. L'alba nel deserto, non lo so. Fa un freddo boia. Sì, però sì, fa un freddo boia, esatto, però insomma il suo perché. Tanto senta, ma si immagina quel volo circolare di avvoltoi sopra di voi, già lì stesi mano nella mano, sull'oasi, con i datteri, o no? Sì. Non mi tange, cioè a quel punto... Ma poi gli avvoltoi non ce n'è nel deserto. Eh beh, sì, ci devono essere per forza, chi li mangia? Ma dopo... Arriveranno. Ora che arrivano... Ma no, ma sì, ma comunque al limite arriva forse prima qualche iena, qualche... Beh, sempre roba così. Dipende da che parte. Ma come fai esattamente a decidere che in quel momento devi morire? Ah no, no, io non lo decido, spero che succeda. Ah, lei spera quel mondo, contempla il sole che sorge sul deserto e in quel momento... Sì, ripeto, tac, oppure è per quello che penso all'aereo, perché mi sembra una cosa realistica, no? Più allora è meglio l'aereo. Va bene, questo mi sembra bello. Sì. Paola invece... Eccomi qua. Oh, finalmente vi siete svegliate. Paola, no, perché le donne non parlano mai se non della propria morte, capito? Mai pensano che la persona che gli sta accanto soffre per loro, si dilania d'amore per loro, si smarrisce per loro, potrebbe morirne. Invece no, non sono interessate. Allora, Paola. Allora le dico, a me piacerebbe andare a comprarmi un vestito bellissimo. Come? Descriva il vestito. Beh, dovrebbe essere sicuramente nero. Sì, beh certo, se per la morte, è chiaro. Una specie di tubino fino al ginocchio e col collo a barchetta. Quindi è la mia passione. Un vestito attizzante. Sì, probabilmente non mi preoccuperei neanche di pagarlo, lo pagherei con una carta di credito, coperta o no, certo. Non sarebbe più un problema mio. E sotto il vestito? Sotto il vestito sa che non ci avevo pensato, vai, ci metterei della bella biancheria. Perfetto, sempre nera. E sempre con la carta di credito, coperta certo. O no, non importa. E una volta così apparecchiata? Così andrei, penso anche a farmi i capelli. Beh, si fa bella, tutto, capelli. Esatto. A questo punto che c'è anche unghie, trucco, depilazione, sì. Qualunque cosa. Ci metterei tutto quanto. Beh, si fa gnocchissima, poi? Poi andrei a farmi un bel pranzo. Cioè, sabotta di cibo. Ma non eccessivo, se no il tubino dopo un po' cede, quindi... Esatto, cederebbero le cuciture, sarebbe un problema. Quindi moderatamente mangia, dopo che ha mangiato. E poi mi piacerebbe morire facendo l'amore con l'amante, possibilmente, non col marito. Finalmente, perché è una tristezza, tutti col coniuge canonico. Sì, però il tubino a questo punto se lo toglie o lo tiene addosso? No, il tubino me lo farei togliere. Ah, perfetto. Si fa stubinare e poi tubare? E poi? Mi farei stubinare, penso, non ho pensato al luogo, ci penserà lui, no? E come fa a morire nel momento fatidico? No, spero di passarlo quello, almeno l'ultima volta. Sarebbe un gran concerto, l'ultima nota, poi io me ne vado. Quindi lei fa l'amore tutta la notte e all'alba si spegne? E all'alba potrei spegnermi tranquillamente. No, sì, perché per noi uomini è facile, noi ci prende il coccolone, l'infarto e moriamo secchi sul pezzo con la lingua di fuori. Ma la donna non succede questo, quindi no, come fa? Probabilmente avrei finito di far tutto, mi sarei avvicinata a lui, saremmo stesi e chiudo gli occhi e tanti saluti. Beh, come un'eroina romantica, muore di tisi proprio sul letto, bellissimo. Va bene, mi piace questa cosa. Salvatore, finiamo con Salvatore. Salvatore? Sì. Come vuoi morire? Già detto, vorrei morire in mare, affogato, perché amo il mare. Ah, benissimo, morte da marinaio. E poi, come dice Shakespeare, fa dire a Re Lear di essere servito a tavola con i pesci. Ecco, come cibo consumato dai pesci. E quindi continuare a vivere nelle persone. Quindi lei vorrebbe andare con la sua barchetta a pescare, cascare sì, in acqua. Che mi piace molto. La mangiano i pesci. Esatto. Poi buttano le reti i pescatori, prendono questi pesci. Ecco, bravo. Esatto. La sua vedova e i suoi figli vanno in spiaggia. No, dicono... io sono già vedovo. Ah, beh, quindi niente. Allora, che ne so. I suoi amici, le sue figlie, vanno... Dice, ah, povero papà è morto in mare. Beh, già che siamo qua, facciamoci... No, cioè, sì, facciamoci una frittura. Vanno dal pescatore e comprano i pesci. Vanno lì dal primo ristorante, ci cuoce questi pescetti e poi tutti assieme felici se li mangiano, dice, si pasciano e si nutrono del ricordo del padre. E uno trova dentro un pesce un dito con un anello, dice, ma questo anello era l'anello di papà. E capiscono che lei era stato mangiato da quel pesce. Sì, solo che non uso anelli. Vabbè, cosa c'ha? Un dente d'oro? Una protesi fallica? Qualcosa troveranno di suo padre dentro quel pesce. Grazie, Salvatore. Sansonna. La dentiera, forse. La dentiera, perfetto. Ecco, mangiando dentro un cefalo, trovano una dentiera, dice, i denti di papà, e baciano con la bocca come... come Amleto baciava il testo. Infatti questo è anche un pezzo dell'Amleto. È molto shakespeariano. Ricordo anche il finale di Deadman, in cui Johnny Depp si avvia con questa barca lentamente nel fluire delle acque, insomma, l'abbandonarsi al mare. Vedi che esiste una forma poetica per parlare della morte, senza sempre questa maniera ossessiva, reiterata, meccanica di fare l'elenco dei morti. Vedi, ognuno di noi dentro di sé ha una sua allucinazione nel momento estremo, perché convive con noi, possiamo riderci quanto vogliamo, possiamo fare i cinici, possiamo dargli dei portati fantastici, metafisici, ma in realtà vive con noi questa idea. E vedi che lentamente ognuno di noi ha la sua avventura finale, all'ultimo capitolo della propria avventura esistenziale, e lo racconta come vuole. Melog, la realtà condivisa. Preparati a morire. No, come? In sull'istante. Oh, che s'aspetta? Io ci sono, tu ci sei. Ti fa scegliere un coccolone? Veste improvvisa? Vermiculite? Ovvero un fulminante disciogliersi dei corpi? Le misere proposte. Brancaleone da Norcia debbe aversi morte gloriosa, con l'arma in pugno e per causa giusta. Questo mi spetta. Son cavaliere. Come tu vuoi. Dai tempo le sette lune, trascorse le quali io verrò a ti pigliare doveunque e comeunque. Sette lune? Mi basta l'arco d'un sol giorno per trovare la mia degna morte. 800240024, la morte eroica di Brancaleone. Mi scrive Maria Castaneda, la grupi messicana di Novara, la tenutaria del Mariachi Loco, dice: in questa puntata mi viene da morire da ridere, essendo messicana, sa che i messicani hanno un rapporto disincantato, ilare con la morte. Il 2 novembre è la più grande festa dei bambini, che sgranocchiano teschietti di pan di zucchero, e mi dice una canzone messicana che fa riflettere: quiero morir cantando come muore la cigarra, voglio morir cantando come muore la cicala. Giuseppe. Questo era Brancaleone nelle crociate, il 7 e il deserto di cui parlava l'ascoltatrice prima, qui il samurai goffo e norciano che è Brancaleone affronta una morte spelacchiata e irsuta che parla toscano e ha la voce di Gigi Proietti che abitava poi quel corpo di quella morte, anche se non si vede, ma la voce è sua e il corpo è anche il suo. E quindi c'è questa lotta, questo duello finale in cui anche lì non l'abbiamo fatto sentire, ma ci sarà un'altra morte per amore, perché per lui si immolerà Stefania Sandrelli, la strega, che verrà falciata al posto di Brancaleone e rinascerà, appunto, si reincarnerà in una gazzaladra che accompagnerà Brancaleone nel suo peregrinare. È la rilettura beffarda della morte di Bergman, di questo spettrale personaggio che gioca a scacchi col cavaliere. Qua in realtà è una vecchia spelacchiata schifosa, come in realtà mi immagino sia la morte. Certo, c'è anche un romanzo di Robinson Jeffers che Andrea Pazienza trasformò in disegno, che è Campofame, in cui c'è la lotta con la morte muore e per un momento tutto il mondo si blocca, nessuno riesce a morire più, quindi questo è anche affascinante. Luca, buongiorno, come vuoi morire? Sì, ciao. Ma io, guarda, vorrei morire suonando, siccome sono un tastierista e suono in un gruppo, una cover band che fa New Wave anni 80, e tra l'altro abbiamo un pubblico di dark, gothi, gente che ama... Una cover band, quindi siete già morti praticamente. Siamo già morti, sì, morti viventi praticamente, teniamo in vita una musica morta. E per me l'ideale sarebbe quello, siccome suono le tastiere, quindi morire al termine di un assolo di synth su una canzone degli Ultravox che si chiama Hymn, al termine, tra l'altro è un inno, quindi addio al cielo, quindi insomma al termine di questo assolo cadere, accasciarmi sul palco rovinosamente sulle mie tastiere e lì rimanere fermo. Beh, morire sul palco come le grandi star, mi sembra... sembra divertente come cosa. Leggo qualche sms. Vorrei diventare cibo per gatti, ma dovrei essere lavoratore fresco, quindi morto in apposita saletta presso fabbrica. Questo vuole andare nella fabbrica dei bocconcini per gatto, essere lavorato e dato ai gatti. A Lisbona, in una casa del fado, dopo una mangiata bevuta fumato, alle 2 di notte circa, con una bella voce che canta in sottofondo. Questo mi piacerebbe anche a me. Mi piacerebbe morire con una donna che mi canta in sottofondo. E un'altra che mi suona. Muoio di infarto mentre scalo un ghiaccio e nessuno mi trova. Marco. Nicoletti, mi sta divertendo da morire. Meglio così. Una sparatoria mentre rapino una banca. Claudio. Mamma mia. Trasmissione opaca, scrive un ascoltatore. Mi piacerebbe un suo commento. Maurizio. Pensi chi non può scegliere? Nessuno può scegliere. In assoluto nessuno sceglie. Quindi ci penso sempre che non può scegliere, ma abbiamo liceità di immaginare, di allucinare, di giocare e scherzare. Pensa chi non può scegliere. Ma chi è che può scegliere? Nessuno sceglie. Said. Sì, buongiorno. Oh, illuminaci, Said. Sì, io spero che Allah mi ascolti, io morirò. Mentre faccio la preghiera in Mecca oppure nella moschea. Quindi la maniera migliore per stare in pace con la tua coscienza e con il tuo spirito religioso. Sì, perché è l'ultimo giorno della vita, il primo giorno che non incontriamo il Dio. Come, mi dispiace che ho sentito alcuni gente che dicono voglio morire al mare. Per me questo è un suicidio. Però sai, Said, io penso che su questo bisogna avere, lasciare ognuno la libertà e la fantasia di immaginare come vuole. Tu sei una persona di fede e ti riconosco questo grande privilegio, questo grande aiuto. Quindi logicamente la persona di fede, non prendendo in giro come tante volte noi prendiamo in giro dicendoci uomini di fede, dice voglio morire pregando, così sono il momento più vicino al mio Dio. Noi qua molte volte proclamiamo grandi atti di fede, ma in realtà tutti pensiamo di voler morire nella più indecente delle maniere. Nessuno poi in realtà muore con l'anima in pace. E tu da buon credente, da persona credente, dici vorrei morire pregando. Sei veramente profondamente convinto di questo, massimo rispetto, capito? Quindi non hai paura della morte, per te la morte è qualcosa di naturale che aspetti, vuoi solo viverla nella maniera migliore. No, e noi abbiamo fiducia al Dio, il paura della morte non c'è. Va bene che lui sceglie, non sono io che deve sciogliere il giorni, la data, chiaro, ma è lui che sceglie, ma io spero così che morirei a questa condizione. Cioè morire in grazia di Dio, come diciamo noi cristiani. Perché l'ultimo giorno, come hai detto, nella vita, voglio rincontrare il Dio tutto pulito mentre stavo facendo la preghiera, non voglio morire e fare il peccato come ho sentito. Vabbè, Said, guarda, avevo cominciato la missione ridendo, scherzando, dissacrando e garulamente scherzando, tu ci riporti a una realtà che la morte in fondo è qualcosa su cui bisogna riflettere. Chi ha fede, chi ha una visione totale dell'esistenza, ha anche questo tipo di desiderio. Grazie Said, grazie professor Chiappini, grazie Fabrizio Intonti, grazie Sansonna, è volato il tempo.